benvenuti all'ascolto della nona puntata di Semitono Podcast. Oggi iniziamo un lungo viaggio che ci porterà alla scoperta dell'immenso panorama sonoro che fa capo all'Internet Archive. La musica di questa trasmissione è tratta da un concerto tenuto a San Francisco il 24 febbraio 2005 dal compositore inglese Michael Nyman. Il brano che abbiamo scelto è una interpretazione dei temi del film Lezioni di piano. L'Internet Archive nasce nel 1996 a San Francisco, negli Stati Uniti d'America, con l'obiettivo di costruire una biblioteca di contenuti digitali liberamente accessibile tramite Internet. Oggi, 6 ottobre 2005, il sito www.archive.org conta 155.547 utenti registrati e contiene 19.594 filmati, 26.182 registrazioni di concerti, 33.105 file sonori di vario genere e 23.546 testi. A questo bisogna aggiungere circa 40 miliardi di pagine web archiviate nella Wayback Machine, una specie di macchina del tempo che ci restituisce l'aspetto e i contenuti dei siti web degli ultimi 10 anni. La sezione audio dell'Internet Archive è organizzata in diverse collezioni, contenenti discorsi, trasmissioni radiofoniche e brani musicali. Fra di esse la più corposa è senz'altro il Live Music Archive. Al suo interno troviamo registrazioni autorizzate di concerti dal vivo, quasi tutte effettuate sul territorio statunitense. Un'altra collezione molto ricca si chiama Open Source Audio. Qui chiunque può caricare file sonori per distribuirli sotto licenza Creative Commons o pubblico dominio. In questo modo, l'Internet Archive offre ai musicisti l'opportunità di mettere in rete gratuitamente le proprie opere, a patto di autorizzarne la libera diffusione. Ovviamente Open Source Audio non contiene solo musica, ma anche rumori di ambiente, effetti sonori, audiolibri, trasmissioni radiofoniche e il nostro podcast. La collezione chiamata Net Labels raccoglie un gran numero di etichette musicali indipendenti, accomunate dalla scelta di rendere liberamente ascoltabili e scaricabili tutti i brani del proprio catalogo. La quantità e la qualità dell'offerta è tale che abbiamo deciso di dedicare un ciclo di trasmissioni a questa sezione dell'Internet Archive. A partire dalla prossima settimana, ogni puntata si occuperà di una Net Label differente. Una piccola ma preziosa collezione che vi invitiamo ad ascoltare raccoglie le digitalizzazioni di vecchi dischi a 78 giri. Attualmente sono quasi 800 e fra di esse si trovano facilmente documenti di grande valore storico e artistico. per concludere la nostra visita al sito www.archive.org, parliamo di Radio Other Minds. Other Minds è una non profit che si occupa della promozione della nuova musica. Le registrazioni degli eventi organizzati da Other Minds e il ricco archivio della radio KPFA di Berkeley sono scaricabili nell'apposita sezione dell'Internet Archive. Oltre a Michael Nyman, che stiamo ascoltando, troviamo molti dei nomi che hanno fatto la storia della musica contemporanea, come John Cage, Philip Glass, Steve Reich e Astor Piazzolla. Bene, la nona puntata di Semitono Podcast finisce qui. Noi vi invitiamo come sempre ad inviare commenti, messaggi sonori e brani musicali all'indirizzo podcast.semitono.net. Livia Frare e Mario Mattioli vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana.